America 24 di Mario Platero. Mr. President, your stimulus is sure to bust. It's just a socialistic scheme. The only thing it will do is kill the American dream. You wanna take Tea Parties da New York, Mario Platero, buongiorno a tutti, benvenuti ad America 24. La voce che avete ascoltato è quella di Lloyd Marcus, cantante afroamericano. Una canzone di protesta, si rivolge al presidente Obama. Signor presidente, dice, basta con il socialismo, lei sta uccidendo il sogno americano. Come potete immaginare, questo Marcus è diventato il simbolo di una protesta della base repubblicana della destra americana, appunto dei Tea Parties. Che cosa sono i Tea Parties? Beh, si ispirano ai Boston Tea Parties del 16 dicembre 1973, quando esplose una rivolta perché funzionari inglesi imposero ai coloni l'ennesima tassa, in questo caso una tassa sul tè. Quella è l'origine. Ispirandosi appunto a questa ribellione, la base repubblicana, scontenta della direzione che sta prendendo il paese, ha già cominciato a inscenare dimostrazioni, manifestazioni a livello nazionale già dall'anno scorso. Oggi, 4 febbraio del 2010, a Nashville ci sarà una delle più importanti manifestazioni, comincia appunto questo pomeriggio, continuerà due o tre giorni, si concluderà sabato con Sarah Palin, ex governatore dell'Alaska. Non sono tutti felicissimi, il movimento si dice si sta imborghesendo, intanto per partecipare bisogna pagare $549, non solo, ma la signora Palin incasserà $100,000. E allora dove sta andando questo movimento? Lo chiediamo a Robert Zareschi, che ha scritto recentemente un piccolo saggio proprio sul movimento Tea Party e che insegna letteratura francese alla Houston University. Mario, yes, I think they are success. The great question is now that they have our attention. Sono sicuramente un successo, dice Zareschi, una grossa novità politica nel contesto americano. Ebbene, ora che sono riusciti a conquistare l'attenzione dell'opinione pubblica, cosa faranno? Beh, qualche cosa già lo stanno facendo. Intanto c'è il primo candidato serio nato da questo movimento Tea Party che sta mettendo in gravi difficoltà il candidato repubblicano per il Senato del 2010 in Florida. Il candidato è Crist, che poi è il governatore della Florida, uno degli uomini più popolari dello Stato. Ebbene, la sfida gli è venuta dall'interno, da Marco Rubbia, figlio di immigrati cubani di umili origini, nato proprio con il movimento dei Tea Parties, e 12 punti in avanti rispetto a Crist per conquistare la nomination repubblicana e quasi certamente il seggio repubblicano al prossimo novembre. C'è poi naturalmente la forte mobilitazione della base del partito. Il partito repubblicano era in difficoltà, non riusciva a trovare una forte energia al suo interno. Ebbene, questo movimento la sta rilanciando. C'è un aspetto molto interessante con l'Europa, secondo me, in questo, e quindi chiediamo di nuovo a Zareschi se secondo lui ci sono dei paralleli con movimenti europei. I think there is a fascinating parallel with the Northern League. I paralleli ci sono, molto interessanti, intanto con la Lega Nord in Italia, ma anche con il movimento dei Pujadisti in Francia. Pierre Pujade fu uno dei grandi leader che negli anni 50 mobilitò la base popolare contro l'establishment, contro il governo. Movimenti che nascono dunque da una protesta, da un risentimento nei confronti dell'intrusione dello Stato nella loro vita, e quindi reagiscono e condividono naturalmente questo malumore, questo malessere con larghe fette della popolazione. Ecco, questo sta facendo il Tea Party, in qualche modo è un contraltare di quello che è già successo in Europa, con alcune differenze. Intanto, in Italia, nella Lega Nord, c'è un grosso leader, Bossi, dice Zareschi. Invece il movimento del Tea Party non ha un vero e proprio leader. Non solo, ma il movimento della Lega Nord è soprattutto caratterizzato geograficamente al nord, appunto come dice il suo nome, mentre invece il movimento dei Tea Party è a livello livello nazionale. Ci sono dunque delle piccole differenze, ma in fondo questi movimenti su cui poi si è costruita una base politica, questo ci dice almeno in Italia la nostra esperienza, quasi certamente anche in Italia ci sarà un passaggio, una trasformazione da fringe movement, da movimento che si trova così ai margini della vita politica americana, verso il centro della vita politica del paese. Staremo a vedere cosa succederà a novembre. E passiamo adesso a un altro argomento, il vino italiano in America. Siamo al World of Astoria, vino 2010, grande fiera del vino italiano, una 3 giorni con migliaia di operatori. Abbiamo con noi Agnello Musella, responsabile dell'ICE Nord America, che ha organizzato questo evento con vari operatori italiani. Qual è l'obiettivo? Quanti partecipanti? Perché questo sforzo di 3 giorni? Ma l'obiettivo è quello di consolidare le posizioni italiane, di sostenere le aziende italiane in un momento sicuramente di difficoltà nei consumi. Portiamo 400 produttori italiani, aziende singole, consorzi, quindi un gruppo molto variegato, un'offerta, diciamo, prima di 2500 vini, quindi un'offerta molto ampia, e questa è la caratteristica dell'offerta italiana, molto diversificata rispetto a quella che può essere l'offerta dell'Australia, che fa il mercato degli Stati Uniti con 4 vini, grandi quantità, ma un prodotto molto standardizzato. E questo è evidentemente l'aspetto che poi piace di più agli americani, di fare una scoperta nuova ogni volta che va a comprare il vino presso il negozio specializzato dove loro si riferiscono. Questo è il motivo per cui l'ICE ha invitato da tutti gli Stati Uniti 250 buyers. In questo contesto di 3 giorni abbiamo una chiusura con il grand tasting finale, che vede appunto i 400 produttori, ma vede circa 3.000 visitatori. Ci dica, dottor Musella, ma siamo in crisi, gli americani bevono? Io risponderei con una battuta: drinking wine is the best way out of the economic crisis, che tradurremmo in italiano: beviamo per dimenticare. Questo è un po' quello che gli americani hanno fatto, sicuramente a vedere i dati sul consumo di vini qui a New York, ma anche in tante altre città degli Stati Uniti. Gli americani hanno una vita difficile, come sappiamo, negli ultimi 2 anni, il posto di lavoro sempre più in bilico, mutuo da pagare, e quindi evidentemente questo spinge sempre di più a passare una serata piacevole insieme con una buona bottiglia di vino. E allora il vino evidentemente diventa il vino italiano, anche perché il lifestyle italiano, la dolce vita italiana, tutti questi elementi fanno un po' sognare. Ecco, qual è il vino che ha maggior successo? Un rosso, un bianco? Abbiamo il Pinot Grigio, che è stato un grosso successo, ancora continua ad esserlo qui negli Stati Uniti, ed è un vino che un po' questo ricorda quello che stiamo avendo adesso per il Prosecco, che è il nuovo grande successo del vino italiano negli Stati Uniti. Ma questi sono soltanto 2 esempi, evidentemente, perché accanto a questo ci sono miriadi di vini, anche rossi in particolare, che hanno dei consumatori affezionati e che continuano chiaramente a berli. Ci sono 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ecco alcune anticipazioni. Ritardati, lo ha detto il capo di gabinetto di Obama, Emmanuel, ai Liberal Democratici. Era una riunione a porte chiuse, ma si è saputo, scandalo, il Comitato Olimpico degli Handicappati ha protestato. Emmanuel ha chiesto scusa, li riceverà alla Casa Bianca. Non riceverà invece Sarah Palin, aveva protestato anche lei per il figlio Down. Questi liberal sono senza vergogna, aveva detto la Palin. Da oggi in America anche la parola R for retard è parola politically incorrect. Dopo Wall Street, l'austerità attacca Katie Couric, la conduttrice del telegiornale serale di CBS e del rotocalco 60 Minutes. Guadagna $300,000 la settimana, $15 milioni l'anno, quanto basterebbe per pagare a 200 giovani giornalisti licenziandi uno stipendio di $75,000 l'anno. Quindi c'è stata una grossa protesta, il contratto della Couric scade l'anno prossimo e si dice che verrà quasi certamente rinegoziato al ribasso, come sempre accade di questi tempi. Ed eccoci alla canzone del giorno, da Firenze ad American Idol. Nicci Nix, 22enne italiana, ha fatto 14 ore di aereo da Firenze a Francoforte e poi fino a Denver per partecipare alle audizioni del famoso talent show americano per aspiranti cantanti. La Nicci ha convinto Simon Cowell, l'implacabile presidente della giuria, interpretando un frammento di Something Kinda Who di Girls Aloud. Ha passato il primo turno, speriamo che vada avanti e sentiamo la canzone che ha scelto, Something Kinda Who. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!